Capitolo 8 di Mattinate Napoletane. Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico. Registrato da Davide Lequile. Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo. Capitolo 8. La regina di Mezzocannone. Aprile 1886. Finora Mezzocannone ha avuto solo un re, quel buffo re di Creta abbronzata, mangiato dal tempo e dalle intemperie nel naso e nelle mani e negli occhi, nero, storto e contraffatto come un esopo, bersaglio continuo delle invettive delle serve, le quali vanno ad attingere, e delle pietre e dei torsoli onde lo regalano i monelli impertinenti e democratici. Ma questo budello Mezzocannone, questo schifoso intestino napoletano, ha pure una regina. Il re è orribile, la regina è incantevole. Il re si chiamava, al tempo suo, Alfonso II d'Aragona. Ma la regina? Ella vive e regna in fin della stradicciuola. Come si chiama la regina? Le prime visite che feci alla via, mosse da ragioni affatto lontane dall'interesse artistico, me lo resero sempre più antipatica. E sino a pochi anni fa, al quarto piano d'uno di quegli sporchi palazzetti vecchi, c'è stata una ricevitoria brutta e scura, nella quale ogni due mesi io mi recavo a pagare la tassa della fondiaria. Immaginate con quanta soddisfazione dell'anima. Poi, un bel giorno, la ricevitoria sloggiò. Sloggiarono, rimossi in fretta e furia, i cancelletti di legno dei bastoni unti dalle mani dei poveri contribuenti. Sloggiarono i gravi registri che chiudono tanti segreti di ristrettezza e di privazione. Sloggiò un cassiere malinconico insieme ad un piccolo gatto grigiastro, il quale annusava specie le gambe dei salumai che venivano a pagare. La ricevitoria se ne andò e la casa rimase vuota, muta. Spalancato l'uscio, sparse le camere di trucioli e di pezzetti di carta lacerata. I miei passi svegliavano a un eco breve e vibrante. Ancora sull'usciolino d'una delle stanzucce si vedeva un'addizione. I numeri erano segnati con la matita. Non avendo a fare altro, collaudai l'addizione. Con le mani in saccoccia e l'anima tutta dietro i miei tisici ricordi aritmetici. Il cassiere aveva ragione, la somma era giusta. 14.780. Vi dirò pure, non senza una certa mortificazione, che, avendo una radicata superstizione napoletana, ripassati i numeri del mio taccuino, quando scesi dalla casa abbandonata, me li andai a giocare al lotto. Naturalmente non vinsi nulla, a sfortuna mia, essendo grande come la provvidenza del buon Gesù. In verità, quando mi trovo per cose mie, per gusto mio particolare, a scendere per una così fatta stradicciuola, mi si stringe l'animo. Dov'è l'azzurro? Dove il sole? Dove il buon sangue e la buona salute nelle persone? Dove l'aria e la luce nelle case e nelle botteghe? Dappertutto, penombre e oscurità fitte. Facce smunte scolorite, in cui solamente palpitano i neri e vivi occhi napoletani, pieni di desideri e di curiosità, tutti luminosi d'anima. Una pietà grande, queste povere donne pallide, questi lavoratori di metalli, dallo sguardo lento, dalla pelle sudata, traspirante il veleno delle ebollizioni di piombo o di rame, questi tintori che si muovono nell'oscurità sotto un lumicino che pende dal soffitto, un lumicino rosso, quasi infernale, e i bambini che trascinano i piedi nudi per la mota, i piccoli piedi indolenziti, un vecchio che cerca invano un pezzetto di sole per la sua panchetta di franfellicche, e la buia, misteriosa cantina che raccoglie tutta la gente affamata e puzzolente del quartiere, la cantina della miseria, in cui, al venerdì, il fetore del baccalà fritto nell'olio soffoca il respiro, provocando le piccole tosse dei piccini che una famiglia di straccioni porta a mangiare nell'orrida caverna. Dirimpetto, l'antica fontanella mormora sempre, e par che il borbottio si parta dalla sconquassata bocca del re sovrastante, di questo ammantellato padrone della strada, e lamenti la miseria del tempo, tutto rosso dall'umido e dallo stesso tempo ingrato, che a poco ha fatto di lui un personaggio da burla, vuote le occhiaie come colui della Bibbia che in castigo ebbe mangiate le pupille dai vermi. L'infelice coronato pur vive ancora e concede la limpida vena dell'acqua a un popolo chiassone. L'acqua cade e si spande e allaga per buon tratto la via. commista a nuovi rivoletti di un'altra fontanella, che più in su è posta sul pendio, accanto alla bottega di un torniere, una fontanella municipale, delle solite. E però, d'estate e d'inverno, la via è sempre lubrica. I pochi fanali che vengono fuori, uscendo come dalle finestre, lasciano piovere una scialba luce sul selciato sconnesso, che somiglia a una disgregata sutura di un cranio in cui si infiltrino fantastiche lacrime. E qua e là, per terra, si fanno bianche lucentezze sulle gobbe dei più gibbosi lastroni. Nel lontano, ove la strada è per finire, pende da un balconcello un fanaletto verde sul quale è scritto qualcosa in bianche lettere. Albergo del Pavone. Un letto vi costa 4 soldi. Dal balconcello, certo, non si può avere sott'occhio un felice orizzonte. Non c'è di rimpetto, eh? Una scala, e in capo alla scala un immane Cristo in croce, rifatto dagli ultimi furori religiosi. Dopo il colera, nella notte, con innanzi e dai lati alcune lampade accese, il gigantesco Cristo è vivo e terribile. La via è sempre affollata. Vi sale e scende il commercio di porto, della marina, della vicina strada dei mercanti, di tutte le stradicciole circostanti. Gli operai, intenti alla loro bisogna nelle botteghe, non levano mai lo sguardo ai passanti e continuano a lavorare fino a notte. Tra il grido del di fuori e l'interno a affaccendarsi per l'opera. C'è, a un posto di mezzo cannone, presso un caffettuccio, ove si gioca a carte, una bottega di ricamatrici. Intorno al telaio, come attorno ad una tavola, seguono 4 o 5 povere ragazze, curve sui ghirigori d'argento e d'oro, sui cuori di seta cremisina, sui fiori dai pistilli di conterie luccicanti. Tra costoro è una rossa pallidissima, un po' lentigginata sulla faccia di Madonnina bizantina. L'oro del ricamo non ha più luce di quello dei capelli di lei, che, a volte, rischiarati da un filo di sole, si accendono. Questa è la reginella di Mezzocannone. La piccola rossa, le labbra strette, gli occhi intenti, le bianchissime mani ravvicinate, trapassa con l'ago la trama e non ne stacca l'attenzione per ore ed ore. È la prima della parte dell'uscio. Ma chi passa, in quei momenti di raccoglimento, non vede di lei altro se non la banda dei capelli fulvi, un impreciso profilo, un po' della guancia d'avorio fine, la reginella ricama. In un tramonto estivo, nel quale si spegnevano le ultime luci perfino della bottega delle ricamatrici, la rossa, è chiarissimo ricordo nell'anima mia, aveva appoggiato il gomito sull'asse del telaio e, nella bianca mano, raccolto il mento. Leggermente china da un lato la testa angelica, gli occhi nel vuoto, sognava. Le altre sommessamente chiacchieravano. La principale preparava i lumi. Un grande silenzio si era fatto per la via. La dolcezza del tramonto, penetrando nell'anima la piccola rossa, socchiuse le labbra e sangue. Lo sguardo perduto continuava a sognare, come una santarella e un'areola di pulviscolo d'oro. Fine del capitolo 8, registrato da Davide Lequile.